Incontri di Gianfranco Fabi. La voce di John Betts, una voce classica, una voce che rimane nella storia della musica, Wall in the Wind, anch'esso un brano di Bob Dylan, anch'esso nella storia della musica, il brano scelto da Gianpiero Bracchi. E prima di presentarvi Gianpiero Bracchi, chiediamogli perché ha scelto questo brano. Ma nei primi anni 70 ero in California, ero un giovane ricercatore universitario e avevo scoperto a Berkeley un mondo nuovo, molto diverso dal nostro, con la fine della guerra del Vietnam, un'attenzione verso i diritti civili, e c'era un ambiente molto internazionale e effervescente che ha costituito un'esperienza unica della mia vita. Ma casualmente anche mia moglie, che conobbi ritornando dopo in Italia, era in California in quegli anni, amava lei stessa questa musica, e quindi queste musiche di John Baez ci hanno sempre accompagnato, diciamo, in tutti gli anni successivi, proprio nel ricordo di quando eravamo giovani e vedevamo la speranza di un mondo migliore. Certamente, la speranza di un mondo migliore. Buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano, è quella che dobbiamo avere un po' tutti anche adesso. Queste canzoni ci ricordano gli anni 70, anni in cui Gianpiero Bracchi si è laureato nel 1967 al Politecnico di Milano in ingegneria elettronica, ed è poi rimasto al Politecnico e adesso ha uno degli incarichi più prestigiosi all'interno del Politecnico, è presidente della Fondazione per il Politecnico di Milano, e poi ci spiegherà cos'è la Fondazione. Oltre ad altri incarichi è stato presidente della IFI per 9 anni, l'Associazione Italiana del Private Equity, è vicepresidente di Banca Intesa, presidente di Banca Intesa Private Banking e altri incarichi nel campo finanziario. Gianpiero Bracchi, quindi, una carriera tra innovazione, ingegneria e finanza. Dove è il cuore, da tutte e due le parti? Ma è soprattutto sullo sviluppo, su aiutare lo sviluppo con la tecnologia. Anche perché la crisi, la grande crisi che stiamo attraversando in questi anni, ci ha fatto sempre più comprendere che ci sarà una crescita, uno sviluppo, se ci saranno anche nuove imprese che gradualmente sostituiranno quelle che vanno chiudendo, che non riescono a raggiungere le dimensioni per essere sui mercati internazionali. Quindi è proprio con la creazione di imprese innovative e dall'altro lato con l'innovazione delle imprese che ci sono, perché possano competere sui nuovi mercati di nicchia, possano internazionalizzarsi, lì che si gioca una sfida della nostra economia. Quindi è un mondo dove c'è una congiunzione tra la ricerca universitaria, il trasferimento dell'innovazione, la creazione di impresa e anche il ruolo della finanza che deve sostenere lo sviluppo di queste imprese. Ecco, abbiamo parlato della California, del Berkeley, abbiamo parlato della Silicon Valley, sono realtà che restano come dei miti nell'ambito dell'innovazione, delle nuove imprese, della capacità di realizzare qualcosa di nuovo, come di fatto ha dimostrato poi anche negli anni successivi questa realtà americana molto dinamica. Che cosa manca all'Italia per essere come la Silicon Valley? Beh, la Silicon Valley è qualcosa di molto differente. Negli anni 70 nasceva la Silicon Valley, esistevano già alcune imprese innovative, ma ricordo che molti dei colleghi di Berkeley hanno poi fondato aziende, le nuove aziende dell'Information and Communication Technology, con questo connubio tra, da un lato, ricerca di punta. In quegli anni in California si sentiva che in quello che facevamo eravamo il meglio che ci poteva essere nel mondo, c'era questo spirito di essere sul confine delle cose che si possono fare, dall'altro lato molta capacità e molta imprenditorialità, anche attitudine al rischio, dall'altro lato ancora una finanza che investiva sulla innovazione. Insomma, in definitiva, un ecosistema che poi si è sviluppato in questi decenni, fatto di grandi imprese tecnologiche da cui nascono tanti spin-off, centri di ricerca avanzata e poi fondi di private equity, venture capital, investitori informali, business angels, che dedicano le loro risorse e anche il loro tempo a cercare di aiutare queste imprese. È un ecosistema che in Italia abbiamo molto parzialmente, anche in un'area come Milano c'è, ma ancora il contesto è molto differente. Beh, però le risorse umane indubbiamente in Italia ci sono, la volontà c'è. Il Politecnico di Milano, come viene considerato, che realtà è sul fronte dell'innovazione, della capacità di generare possibilità di creare nuove imprese, imprese innovative? I nostri ingegneri, i nostri architetti che escono dal Politecnico non hanno nulla da invidiare con quelli degli altri paesi. Ma innanzitutto diciamo che il Politecnico di Milano quest'anno per la prima volta è nel novero delle tutte le varie classifiche che si fanno sul contesto internazionale, è nel novero delle prime 50 università tecnologiche del mondo, dove dominano le università del Nord America, e ora anche sono entrate a buon diritto molte università cinesi e indiane, e fra le università europee il Politecnico si colloca fra le prime 15, quindi è una realtà significativa nel nostro ambito continentale. La formazione dei nostri ingegneri, designer, architetti è una formazione ben riconosciuta a livello internazionale, anche perché li facciamo studiare più anni di quelli che impiegano per esempio negli Stati Uniti. Cioè, i nostri laureati studiano di più, il corso di studio è abbastanza impegnativo, c'è anche un approccio, la capacità di modellizzare la realtà per affrontare, per risolvere i problemi che dei nostri ingegneri gli condiziona per tutta la vita il modo di ragionare. Un ingegnere si riconosce, quindi i nostri ingegneri sono bravi e lo dimostrano non solo quando sono in Italia ma anche quando lavorano all'estero. Certo, non trovano sempre qua le opportunità di impiegare al meglio la loro capacità nelle tipologie di imprese che abbiamo noi. Che vadano all'estero è anche un dato positivo, però dovrebbero anche tornare prima o poi questi nostri giovani che vanno a fare esperienza da laureati all'estero. Ecco, Gianpiero Bracchi, presidente della Fondazione del Politecnico di Milano, che ruolo ha la Fondazione a fianco, sopra il Politecnico, come, che ruolo svolge? Nel 2003 abbiamo creato al Politecnico questa fondazione con lo scopo di promuovere e rendere sistematica la collaborazione del Politecnico con le imprese. Non è che il Politecnico non collaborasse con le imprese, 150 anni fa è nato dalla collaborazione industriale. Una parte significativa dell'industria lombarda è nata proprio da docenti e studenti del Politecnico. Questa collaborazione c'è sempre stata, ma nel frattempo sono cambiate le aziende italiane. Abbiamo poche grandi imprese e un grande numero di piccole imprese che non svolgono al loro interno una ricerca formale. Abbiamo perciò creato una struttura che promuovesse questa collaborazione, promuovesse ricerche comuni finanziate dalle imprese, ma anche che cercasse insieme alle imprese fondi pubblici per la ricerca, fondi nazionali e ora fondi europei. Sappiamo che nel nostro paese si contribuisce per il 13% ai fondi di ricerca dell'Unione Europea, ma riusciamo a raccogliere meno del 9%. Questo vuol dire 500 milioni l'anno che nei prossimi anni perderemo perché li abbiamo dati all'Unione Europea e non riusciamo a portarli a casa. Ma c'è anche un problema di rendere disponibili, di rendere poi esecutivi i progetti che possono essere finanziati dall'Unione Europea. Molto spesso avviene per le regioni, può avvenire probabilmente anche per i centri di ricerca, questi fondi sono stanziati ma non vengono utilizzati perché non ci sono progetti adeguati, non c'è una capacità di utilizzare appunto questi fondi. È questa realtà anche per i rapporti all'interno del mondo universitario? Con l'Unione Europea non è, diciamo, proprio così, nel senso che i fondi che vengono stanziati dall'Unione vengono in realtà erogati relativamente tempestivamente e spesi. Il problema nostro è che occorre presentare progetti collaborativi a livello internazionale, di solito serve lavorare con aziende e università di altri due o tre paesi, bisogna presentare anche, essere in grado quindi di scrivere dei progetti che vengano valutati positivamente. E le nostre piccole e medie imprese sono in grave difficoltà nel fare questo. Questo è uno dei lavori che fa la Fondazione, quindi cercare di mettere assieme le università, le imprese, trovare partner internazionali e preparare buoni progetti che da un lato interessino le imprese, ma dall'altro lato trovino anche un giudizio favorevole da parte dei valutatori dell'Unione Europea. Quindi in quel caso i denari non vanno persi, vengono utilizzati, solo che noi italiani riusciamo a prenderne molto meno di quanto ne prendono i britannici o i tedeschi. Ecco, ma come superare questo handicap in fondo della realtà di piccole e medie imprese? Si riescono a formare delle reti che uniscono le piccole imprese, si riescono a formare dei consorzi, delle possibilità operative mettendo insieme delle individualità come sono appunto quelle delle PMI? Di solito la formula è avere in un grande progetto, un progetto di grandi dimensioni, una grande impresa e un gruppo, un cluster di piccole e medie imprese che fanno anche la sperimentazione di quello che viene sviluppato insieme alle università. Poi si parlava prima della California, ma l'ecosistema della California è fatto di alcune grandi imprese tecnologiche a cui stanno attorno tante imprese specializzate, ed è questo in definitiva che è un po' venuto a mancare in questi ultimi decenni a Milano. Sono ormai poche le grandi imprese tecnologiche di cui disponiamo. Incontri. Ancora con la voce di John Baez, con Blowing the Wind, un classico di Bob Dylan, riprendiamo il nostro incontro di oggi pomeriggio. Buongiorno, buona domenica a chi ci ascolta, buongiorno e buon pomeriggio ancora a Gianpiero Bracchi che è qui con noi. Ci ha detto che ha scelto questa canzone, questa musica, ricordando un po' gli anni 70, quando ha vissuto alcuni anni in California per appunto iniziare la sua carriera di ingegnere laureato al Politecnico di Milano, poi è diventato professore di sistemi informativi. È dal 2003 presidente della Fondazione Politecnico di Milano, è stato fino a pochi giorni fa e per 9 anni presidente della IFI, Associazione Italiana di Private Equity e del Venture Capital, ed è presidente di Intesa San Paolo Private Banking. Abbiamo parlato di innovazione, abbiamo parlato della difficoltà ma anche della necessità di mettere un po' insieme piccole industrie, grandi industrie, fare dei progetti per portare in Italia questa cultura in fondo dell'innovazione che è necessaria per vincere questa sfida competitiva che abbiamo davanti. Ecco, ha qualche esperienza concreta, qualche risultato a cui particolarmente legato in questa prospettiva, professor Bracchi? Esempi ce ne sono tanti, sia con grandi sia con piccole imprese. Parlando di una grande impresa che lavora con noi fino dall'inizio, la Pirelli a Milano è una delle poche grandi imprese che fanno ancora innovazione e ricerca che sono rimaste. Con loro per esempio abbiamo rinnovato recentemente un accordo basato su quello che la Pirelli fa oggi, cioè gli pneumatici, sì, quindi intelligenti, per esempio per introdurre sensori intelligenti, cosiddetti RFID, negli pneumatici, dando delle nuove caratteristiche, avere dei nuovi sistemi di sospensione, in particolare pensando anche a soluzioni adatte a automobili a alte prestazioni, in particolare per l'utilizzo con la Ferrari. Ma parlando di un progetto europeo, proprio recentemente ne abbiamo promosso uno con una grande azienda internazionale che ha ancora una grossa base in Italia per lo sviluppo di telecomunicazioni basate su optoelettronica, cioè su dispositivi di tipo ottico, vedendo collaborazioni tra grandi e piccole imprese, per esempio con Telecom nell'ambito dei programmi nazionali cosiddetti Industria 2015, si sta sviluppando un progetto di utilizzo dei dispositivi radiomobili, dei cellulari per applicazioni intelligenti che vedono coinvolte un gran numero di piccole imprese specializzate in settori più dettagliati. Cioè, in definitiva, un modo di lavorare con grandi e con piccole imprese. Le piccole imprese del tessile in particolare ci hanno accompagnato in tutti questi anni. La Lombardia è ricca di imprese tessili che hanno conosciuto anni difficili, che hanno dovuto riconvertire la loro produzione da produzione di massa ormai trasferite in Turchia, certo, piuttosto che in Cina o in Pakistan, verso produzioni di nicchie. Con loro abbiamo lavorato a usare tecnologie innovative in questo settore maturo per ad esempio trattare le fibre tessili in modo da dargli caratteristiche particolari. Ecco, c'era chi diceva che non ci sono settori maturi, c'è solo un modo maturo di guardare i settori economici, perché ci deve essere innovazione anche in settori maturi, anche in settori dove l'Italia ha tradizionalmente una posizione di forza, ma che può difendere solo innovando. Il tessile è uno dei casi, il mobile è un altro sicuramente. In questi casi l'innovazione è quello che può avere un ruolo vincente. L'innovazione certamente consente anche di trovare nicchie all'interno di settori maturi dove le produzioni di massa, per le ragioni che tutti conosciamo, non sono più possibili in Europa. Per esempio, le nanotecnologie applicate al tessile consentono di dare delle caratteristiche di non assorbimento di umidità, di odori, di luminescenza, anche cose particolari. Abbiamo sviluppato delle fibre che lasciano passare i raggi che abbronzano anche sotto il costume da bagno, per esempio. Chiaramente non sono produzioni di massa, ma di nicchia. Va detto però che l'innovazione nei settori maturi non è solo innovazione tecnologica, è anche innovazione non tecnologica. In Italia in particolare è in innovazione organizzativa, logistica. Molte delle nostre grandi imprese di moda hanno sviluppato anche dei modelli organizzativi logistici particolari, e è un'innovazione del design, in cui la nostra area milanese è in particolare leader a livello internazionale. Quindi lavoriamo anche molto, avendo al Politecnico una grossa realtà nel campo del design, su come applicare il design ai nostri settori, non solo dell'arredo, non solo della moda, ma anche al settore dei servizi, per esempio il design dei servizi finanziari, in modo che si presentano in una modalità un pochino più amichevole nei confronti di chi le usa. E noi sappiamo che quando usiamo il web con la pubblica amministrazione, certo, noi fondamentalmente, diciamo, mangiamo improperi alla memoria di chi l'ha sviluppato. Ecco, lei parla di una modalità amichevole di rapporto tra la finanza e poi chi utilizza queste forme di finanza. Questo mi dà un assist per farle appunto una domanda sul fronte poi finanziario. Da ex presidente della IFI, conosce molto bene la realtà finanziaria, il private equity, le piccole imprese, le necessità della finanza. La finanza non ha una buona fama, soprattutto negli ultimi anni, sembrata staccarsi dall'economia reale. Come tenere legata la finanza all'economia reale? Come far sì che economia reale e finanza marcino a braccetto e possano sostenere quella che si spera tutti sia una ripresa, una crescita dell'economia italiana? Dobbiamo dire che la finanza italiana non è mai stata una finanza da corsa che investe su mercati dei derivati a livello internazionale, speculando al ribasso, al rialzo, su titoli che non possiede neppure, ma avendo solo dei credit default swap, su titoli che non ha neanche in portafoglio. Proprio perché le nostre banche hanno tradizionalmente prestato non tanto alle persone fisiche, che in Italia richiedono meno debito, quanto alle imprese. Le banche italiane sono quelle che hanno la percentuale del loro attivo investito in prestiti alle imprese più elevato a livello europeo. E quindi in realtà anche nelle crisi finanziarie del 2007 non avevano in realtà denaro da investire in giochi sui mercati internazionali, perché i loro denari erano impegnati in imprese che non è che li restituissero facilmente, a differenza ad esempio delle banche tedesche, che avendo imprese che richiedono meno credito avevano grandi disponibilità da investire sui mercati finanziari, sull'investment banking. Quindi questa è stata una caratteristica del nostro sistema. Nel campo del private equity, cioè di chi investe in capitale di rischio, la maggioranza delle operazioni, i tre quarti in Italia, si fanno su piccole e medie imprese, utilizzando una scarsa leva di debito. Spesso sono anche investimenti di minoranza. Anche in Italia sono esistite alcune grandi operazioni che hanno fatto abbondante uso della leva finanziaria, cioè del credito che veniva dato soprattutto verso la metà degli anni 2000 molto facilmente dalle banche, e questo ha creato delle bolle che hanno caricato sulle imprese un debito eccessivo. Quindi qualche caso c'è stato, ma sono piuttosto nel nostro paese casi isolati. Nel nostro paese non c'è stata la possibilità di acquisire grandi conglomerati a debito, poi venderli a pezzi e così via, perché non c'erano questi grandi conglomerati, e alcune di queste operazioni erano state fatte prima con le privatizzazioni, ma non era la finanza che era intervenute, erano in realtà dei gruppi imprenditoriali privati. Quindi non ci sono stati questi stessi fenomeni molto più frequenti per esempio negli Stati Uniti. Quindi la nostra finanza ha fatto certamente qualche errore, ma molto meno di quanto non avvenga. Oggi indubbiamente la grande crisi finanziaria ha ridotto molto le disponibilità che le banche hanno nel sostenere l'economia. Ecco, in questa prospettiva che cosa si può fare? Le aziende italiane sono aziende familiari, aziende che hanno molto spesso una scarsa volontà di aprirsi, perché c'è una logica appunto di controllo diretto, di controllo immediato. La finanza fa un po' fatica a entrare in queste imprese, anche le imprese che hanno anche dei risultati positivi, potrebbero forse crescere di più, ma sono un po' bloccate dalla logica di tenere il controllo. E questa è la prospettiva di molte imprese familiari, anche se non è certamente giusto generalizzare, ci si può essere esempi in un senso e nell'altro, ma nella media c'è una resistenza degli imprenditori italiani ad aprirsi al mercato finanziario? C'è questa resistenza, è diversificata nel paese. Va detto che gli investimenti del private equity, cioè gli investimenti in capitale di rischio, si fanno all'85% in quattro regioni, in Lombardia, Triveneto, Emilia e un po' in Piemonte. Il resto è piccola cosa. Certamente esiste anche in queste regioni una resistenza all'ingresso nel capitale delle imprese familiari di investitori finanziari. Questo a volte deriva da una non conoscenza, non comprensione, sospetto, ma molte altre volte deriva anche dalle abitudini delle aziende familiari, soprattutto da quelle di minori dimensioni, dove spesso non c'è una separazione chiara tra il patrimonio della famiglia e il patrimonio dell'impresa. Certo. Quando entra l'investitore finanziario richiede innanzitutto bilanci certificati, questo impedisce certi comportamenti molto diffusi nelle piccolissime imprese, una separazione quindi tra il patrimonio della famiglia e il patrimonio dell'impresa, e dall'altro lato anche un'attenzione manageriale, nel senso che se nella famiglia esiste l'imprenditore in grado di condurre l'azienda, va bene per tutti, perché non c'è nessuna differenziazione di interesse tra management, capitale e così via. Ma se all'interno della famiglia non c'è questa capacità, beh, si trovano un manager sul mercato, certo, e lo incentiva a lavorare bene per far crescere l'azienda. Ecco, quindi sarebbe un discorso che andrebbe fatto, approfondito, ma abbastanza lungo. Purtroppo i nostri tempi sono limitati. Un'ultima domanda: come vedi i giovani di oggi, i giovani che frequentano l'università, che lavorano, che cercano di dare il loro apporto alla società, ma si vedono spesso con molti ostacoli davanti? Come vede, che parola possiamo dire ai giovani che entrano magari all'università in questi anni? I giovani sono sempre una grande risorsa. Noi abbiamo abituato nella formazione i giovani a pensare di essere funzionali all'ingresso nelle medie, soprattutto nelle grandi imprese, che oggi non stanno assorbendo più i nostri laureati. Dobbiamo quindi sempre di più creare in loro anche una attitudine a mettersi in proprio, a creare imprese. Per quello, ad esempio, noi alla Fondazione Politecnico svolgiamo tanti concorsi per i giovani, Switch to Product, Idea to Product, cioè abbiate un'idea e noi vi aiutiamo a trasformare questa idea in un qualcosa che può diventare un prodotto o può diventare una impresa. E c'è un interesse crescente, soprattutto in questi ultimi anni, proprio nei confronti di creare una propria iniziativa partendo dalle conoscenze che si hanno. E speriamo che il vento sia favorevole o torni ad essere favorevole ai nostri giovani, perché abbiamo bisogno di giovani impegnati, che abbiano un ottimismo, l'ottimismo della volontà e la capacità appunto di creare nuove imprese, perché solo attraverso l'innovazione si può creare di nuovo valore e creare crescita anche per il sistema paese. Io ringrazio Gian Pio Bracchi, grazie, presidente della Fondazione Politecnico di Milano, di essere stato con noi questo pomeriggio, così come ringrazio Fabio Cantadori in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.